Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il nodo da sciogliere ora è: ma vogliamo passare il Natale facendo feste, cenoni e assembramenti, o vogliamo passare un Natale che è diverso, è più sofferente, con più disagi, se vuole anche più vero, parafrasando Papa Francesco, ma tra di noi, ognuno a casa propria? Io penso che debba essere così e sarà inevitabile che così. Insiste, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro degli affari regionali boccia ognuno a Natale a casa sua, quindi non si saprà appunto se Natale con i tuoi o senza i tuoi, diciamo, rifacendosi al vecchio detto, speriamo almeno Pasqua con chi vuoi se ci comportiamo bene, da quanto dice il ministro Boccia, che è per la linea rigorista insieme al ministro della Salute Speranza, ma ha detto che però una decisione definitiva del governo sulle misure che saranno prese anti-Covid nelle feste natalizie verrà presa domani o forse addirittura sabato. Siamo quindi in assoluta attesa, visto che insomma comunque bisogna avere le idee chiare su cosa si può fare e cosa non si può fare. Poi ci occuperemo di finalmente una bella notizia, che è quella della liberazione dei pescatori sequestrati in Libia, pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia ormai oltre 100 giorni fa. E ci sarà per parlarne non solo un esperto di Libia, ma anche la moglie di uno dei pescatori. E poi, per alleggerire fra i vari temi, ci occuperemo anche di Sanremo, perché oggi Amadeus annuncia i 26 big che concorreranno nel prossimo festival, che speriamo insomma possa andare in onda normalmente, perché questo ci darà appunto il segno che qualcosa sta andando meglio. 349-238-6666, come sempre, è il numero per i vostri WhatsApp per commentare i fatti della giornata, 349-238-6666, altrimenti comodamente per voi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte. L'andamento del coronavirus in Italia: sono 18.236 positivi al tampone nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, le vittime sono 683. Le misure anti-Covid per le festività: Italia in zona rossa a Natale, ma la decisione arriverà domani. Zaia nel frattempo anticipa il governo e da sabato decide vietato uscire dai comuni dopo le 14. Vaccino Day in Europa il 27 dicembre, in Italia intanto 60.000 medici pronti a somministrare le dosi. I pescatori sequestrati in Libia, liberati dopo 108 giorni, a breve il rientro in Italia, a Effetto Notte la moglie del comandante di uno dei pescherecci. Decreto sicurezza, il governo pone la fiducia e la Lega occupa per protesta l'aula del Senato. Milano scossa di terremoto di magnitudo 3,8 con epicentro in provincia, nessun danno ma si è sentita in tutta la Lombardia, mai così forte da 500 anni. Sanremo, Amadeus presenta i 26 big che saranno in gara. Partiamo quindi dai dati aggiornati sull'epidemia di Covid-19 in Italia. Come avete sentito, sono 18.236 positivi al tampone nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. I tamponi sono stati 185.320 e il tasso di positività, quindi la percentuale tra i tamponi fatti e i positivi, risale ed è al 9,8%, e le vittime sono sempre molte, 683. L'Agenzia Europea per il Farmaco, l'EMA, ha deciso di anticipare dal 12 al 6 gennaio la riunione dalla quale potrebbe arrivare l'autorizzazione del vaccino anti-Covid di Moderna. Si accelera dunque sui vaccini, ma in serata il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha spiegato che ci saranno 202 milioni di dosi per l'Italia, ma non più in 15 mesi, bensì in 21 mesi, perché Sanofi, che doveva darci 40 milioni di dosi nel terzo e quarto trimestre del 2021, ha un ritardo. Mentre il Vaccino Day, così è stato ribattezzato in tutta Europa, sarà il 27 dicembre, quindi a breve. L'annuncio del via alla campagna contro il virus è arrivato dalla Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. E ci sono 60.000 medici di medicina generale in Italia, di continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali e 100 del 118 pronti a somministrare i vaccini anti-Covid. Lo ha detto il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, e entreremo più nel dettaglio poi con il vicepresidente dell'Ordine Nazionale Leoni. Proseguono nel frattempo gli incontri del governo con i capi delegazione e regioni e delle regioni, mentre il presidente della Regione Veneto Zaia ha anticipato le restrizioni che probabilmente prevede già il governo, mentre per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana la Lombardia può permettersi, dice, di non restringere ulteriormente. È evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti, sbaglia clamorosamente. Parole del ministro degli affari regionali Francesco Boccia, che ai microfoni di Sky TG24 conferma l'arrivo di nuove restrizioni per il periodo delle feste natalizie. Domani alle 18 il Consiglio dei Ministri, sabato al più tardi il varo delle nuove misure. Il premier Conte oggi ha incontrato i capi delegazione di maggioranza, mentre è slittata a domani la conferenza Stato-Regioni. Il Veneto, intanto, alle prese con un nuovo record dei contagi, anticipa la stretta e impone la chiusura dei confini comunali dopo le 14, dal 19 dicembre fino al 6 gennaio. Critico tra i governatori Giovanni Toti. Nel frattempo, il Consiglio dei Ministri ha impugnato l'ordinanza con cui la Valle d'Aosta ha riaperto bar e ristoranti in deroga alla fascia arancione. In vista del weekend, il Viminale fa sapere che sono stati rafforzati i controlli nelle zone dello shopping, della movida e sulle strade, per il rispetto delle norme su spostamenti e distanziamento tra persone non conviventi anche in auto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda la scuola, anche oggi studenti in piazza a chiedere la riapertura delle aule con lezioni in presenza, riapertura prevista il 7 gennaio, ma che i contagi, ne abbiamo parlato anche ieri, mettono in discussione. Governo ancora al lavoro sul dossier scuola e sulla possibilità di far rientrare in classe gli studenti degli istituti superiori dopo le vacanze natalizie. Anche per il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, si deve puntare alla riapertura il 7 gennaio. Potremo farlo se saremo prudenti in queste festività, dice, anche perché se è vero che il rischio zero non esiste da nessuna parte, a scuola il rischio è controllato e accettabile. È un dovere la riapertura delle scuole, un atto di responsabilità, ribadisce la ministra dell'Istruzione Azzolina. E più saremo cauti durante le vacanze natalizie, più l'obiettivo sarà realistico. Ma intanto il nodo principale resta sempre quello dei trasporti. Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell'Università di Padova, 24 Mattino, suggerisce di sperimentare la riapertura in un distretto, ma chiede anche più flessibilità alle famiglie. Il problema dei trasporti non si può risolvere aumentando la capacità. Un approccio potrebbe essere quello di scaglionare le entrate e le uscite. È chiaro che se poi tutti si irrigidiscono, questo problema non si risolve mai. Ma intanto qualche passo in avanti c'è. L'assessore trasporti dell'Emilia Romagna fa sapere che sono stati messi in campo altri 200 autobus. A Roma invece gli studenti si sono mobilitati oggi con una serie di flash mob per chiedere al governo un piano di investimenti coraggiosi sulla mobilità in vista del rientro in classe. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E passiamo all'Europa. Resa dei conti in Svezia sulla gestione della pandemia. Il re di Svezia Carlo XVI ha accusato il governo di aver fallito. La Svezia è l'unico paese al mondo a non avere mai attuato il lockdown. Intanto in Europa effettuano test anti-Covid i capi di Stato dopo la scoperta della positività del presidente francese Macron, che si è contagiato al vertice europeo svoltosi a Bruxelles giovedì e venerdì della settimana scorsa. È un'Europa dalla leadership in isolamento quella di oggi. Dopo la accertata positività del presidente francese Macron, infatti, che è a casa con i primi sintomi, si sono messi in quarantena il premier spagnolo Sanchez, quello portoghese Costa, il premier del Lussemburgo Bettel e diversi esponenti del partito del presidente En Marche e di altri partiti francesi che avevano partecipato a un incontro all'Eliseo. «Je suis désolé», ha twittato il primo ministro britannico Boris Johnson, appresa la notizia. La Polonia, intanto, per timore di una nuova impennata dei contagi durante le feste, ha annunciato restrizioni speciali per il periodo 28 dicembre-17 gennaio, con chiusura di negozi non essenziali e degli impianti sciistici, il coprifuoco a Capodanno e la quarantena per chi arriva dall'estero. Il via libera dell'Agenzia del Farmaco Europea al vaccino Pfizer-BioNTech sembra ormai al traguardo. Le somministrazioni inizieranno due giorni dopo Natale, ha infatti scritto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E l'Europa oggi è diventata la prima regione al mondo a registrare più di 500.000 di morti per il Covid-19, secondo un conteggio dell'agenzia France Press sulla base dei rapporti forniti dalle autorità sanitarie. Nei 52 paesi e territori della regione europea si contano almeno 500.069 morti con oltre 23 milioni di contagi. Poi invece le vittime in America Latina e Caraibi sono 477.404, negli Stati Uniti e in Canada 321.287, in Asia 208.149, in Medio Oriente 85.895, in Africa, lo chiedeva anche degli ascoltatori ieri, per ora 57.423. Finalmente passiamo invece a una notizia molto positiva che si aspettava da tempo. Liberi 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia da 108 giorni. La vicenda così si risolve con una missione a Bengasi di Conte e Di Maio. Gli 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi torneranno a casa entro le prossime ore con i loro pescherecci Antartide e Medinea. Il generale Haftar, le cui motovedette li avevano sequestrati, ha ora elogiato il ruolo dell'Italia nella crisi libica. Per parlarne sarà ospite l'esperto di geopolitica e Libia Arturo Varvelli e la moglie di uno dei pescatori. Passiamo alla pagina politica con il caos avvenuto oggi in Senato, impegnato sul decreto sicurezza. Ultimi giorni al Senato per la conversione del decreto sicurezza che smonta i decreti Salvini sull'immigrazione. Il ministro D'Incà pone la fiducia a nome del governo, ma la Lega non lo lascia parlare. Il presidente di turno, La Russa, sospende la seduta. A nome del governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione... Un attimo. La Lega ha accusato il governo di aver troncato la discussione e ha occupato i banchi del governo. Si riprenderà dopo la conferenza dei capigruppo. Intanto è in programma stasera l'atteso incontro tra Renzi e Conte per la verifica di governo. Il leader di Italia Viva ha inviato al premier una dura lettera in cui accusa Conte di governare da solo e di aver scritto un recovery plan che è solo un collage di buone intenzioni e ha pochi soldi per la sanità e per cultura e turismo. E torna a chiedere il prestito per la sanità e lo stop alla task force sul recovery. Noi non vogliamo poltrone, conclude Renzi. E invece è proprio questa l'accusa dell'ala dura dei 5 Stelle. A Renzi interessa solo il potere, accusa Di Battista. Conte non deve cedere. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E adesso la notizia di un sisma: è stato il più forte terremoto con epicentro nel milanese degli ultimi 500 anni. E si è sentito, vi assicuro, quello registrato oggi alle 16.59 con magnitudo, ulteriormente poi rivista, pari a 3.9. Lo rivela Lucia Luzzi, a capo della sezione di Milano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ci mancava soltanto il terremoto quest'anno. Truffa ai danni dell'Unione Europea, con questa accusa, €500.000 è stato sequestrato all'ex eurodeputata Lara Comi e ad altri indagati. In un'inchiesta della Procura di Milano con l'Olaf, l'ufficio antifrode di Bruxelles, ecco che cosa dicono gli atti. C'era una precauzione che Lara Comi rispettava: non girare mai con la busta, vale a dire con i contanti, come si chiarisce in un'intercettazione. Ed è proprio seguendo il flusso di quei soldi che la Procura di Milano ricostruisce come l'ex eurodeputata di Forza Italia abbia drenato in modo sistematico e spregiudicato, scrive, denaro dalle casse dell'Unione Europea. Per questo oltre €500.000 viene sequestrato a lei e agli altri 5 indagati per truffa. Il meccanismo è così ricostruito: per incassare versamenti dal Parlamento europeo erano stati stipulati contratti con un assistente locale e un altro alla persona, ma parte dei compensi venivano poi girati in contanti alla stessa Comi o al padre, oppure mediante bonifici, si legge nel decreto di sequestro, sul conto dell'associazione Europe for You a lei riconducibile. La Comi, spiega un indagato ai PM, mi chiese di non corrispondere lo stipendio al dipendente, ma di effettuare il pagamento a lei stessa, che avrebbe provveduto a liquidare di persona. L'accusa di truffa per l'ex fedelissima di Berlusconi si aggiunge a quella per finanziamento illecito già contestata nell'indagine Mensa dei poveri, di cui gli indagati ora si preoccupano. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi un po' di musica ci attende, speriamo, Sanremo. Oggi Amadeus, che appunto farà il bis, ha annunciato i 26 big e dice ci saranno anche tante donne per la rinascita. L'anno scorso è stato un po' rimproverato invece per la mancanza di parterre femminile. E poi vi do anche delle notizie sportive, Per il calcio maschile Serie A è in corso la partita Roma-Torino, con per il momento Roma in vantaggio di un gol. E poi c'è un'altra notizia: Robert Lewandowski ha vinto il The Best FIFA Football Award 2020, che è stato assegnato questa sera a Zurigo nel corso di una cerimonia in streaming naturalmente. Il trofeo tuttavia gli è stato consegnato personalmente dal presidente della FIFA Gianni Infantino. Il polacco del Bayern Monaco ha preceduto Leo Messi e Cristiano Ronaldo, che facevano parte della terna finalista. Aggiornamenti per chi viaggia, ci sentiamo a momenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti sempre ricchissimi di notizie che vi devo raccontare, in parte nella sintesi della giornata, in parte le approfondisco con gli ospiti, e poi i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure ai WhatsApp al 349-238-6666. Sempre tantissime notizie, non ho abbastanza tempo per raccontarvi tutto, ma insomma le cose più importanti che avete sentito. E c'è un ascoltatore che forse si riferisce alla scossa di oggi a Milano, Lombardia. Da ingegnere le dico che non è male che ogni tanto ci sia una scossa, dice, vuol dire che non si immagazzina energia e diminuisce la probabilità di scosse di grande magnitudo. Se lo dice lei, ingegnere, io mi fido, speriamo che sia effettivamente così. Io mi sono sentita sollevare, diciamo, di un certo livello, e il momento non è stato particolarmente piacevole, però non lo so, io non ho mai sentito che è meglio che ogni tanto una scossetta piuttosto che nulla, però spero di potermi fidare. Poi altri messaggi, anche la felicità di molti per la liberazione dei pescatori, e invece questo ascoltatore al 349-238-6666 che dice: cara Roberta, ci mancava pure il ministro Boccia che vestisse i panni del Savonarola. Vabbè, una battuta ovviamente, Savonarola era un predicatore di sciagure integralista contro la depravazione eccetera eccetera. Boccia cerca di farci capire che effettivamente la situazione è molto molto grave, anche oggi quasi 700 morti al giorno, ormai poi si parla di numeri e dimentichiamo davvero che sono vite, che sono affetti, che sono sentimenti eccetera. Comunque adesso io direi che tra terremoto, coronavirus, le restrizioni che sono in arrivo, vorrei cominciare con una bella notizia, che è appunto la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo che sono stati sequestrati ormai 108 giorni fa, il 1 settembre del 2019, in Libia. L'annuncio della liberazione è arrivato oggi da Bengasi, da parte del presidente del Consiglio Conte, il ministro degli esteri Di Maio, che sono andati lì a incontrare il generale Haftar, il capo il capo militare che controlla l'est della Libia. Hanno twittato e scritto su Facebook: Conte Di Maio, i nostri pescatori sono liberi, fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari. E quindi si è conclusa finalmente questa lunga prigionia, iniziata appunto lo scorso settembre, di questi 18 pescatori che erano stati sequestrati con i loro pescherecci al largo di Bengasi. Il sindaco di Mazara del Vallo ha già annunciato che li aspetta per domenica a braccia aperte con una grande festa, con i fuochi d'artificio. Dice però: chiediamo al governo di avviare una nuova politica per tutelare i nostri marittimi nel Mediterraneo. E poi di questo parleremo dopo. Ma a proposito di festeggiamenti e di felicità, vorrei subito dare la parola a Marika Calandrino, che è moglie di Giacomo Giacalone, uno dei pescatori, un comandante di uno dei pescherecci. Buonasera Marika. Buonasera, grazie per l'opportunità, grazie per questo grido di felicità. Ad oggi è un grido di felicità dopo appunto 108 giorni del sequestro. Oggi è successo questo miracolo di questa benedetta chiamata che aspettavamo da giorni, contavamo veramente tutti i giorni, dopo 108 giorni. Il nostro cuore oggi incomincia a gioire, io ancora tuttora sono emozionatissima, perché veramente è stato un miracolo, un regalo di questo Natale, di questa festività che noi non sentivamo proprio l'armonia, perché le nostre anime erano veramente spente. Il nostro cuore era spento, perché lì ci sono i nostri cari, c'è la nostra famiglia, lì c'è la mia famiglia, il padre di mia figlia, mio marito, oggi l'ho sentito, abbiamo pianto come Marica, mi perdoni, io sento tutta la sua emozione, la sua felicità e sono davvero felice con lei, però la sentiamo un po' male al telefono ed è un peccato perdere queste parole così belle, perché sento tutto il flusso spontaneo, insomma, della sua emozione, di questa commozione di un Natale che finalmente si prospetta, al di là appunto del periodo difficile per tutti e delle restrizioni, insomma un Natale molto molto emozionante per voi. Vuole che la richiamiamo o riesce a parlare più, diciamo, più chiaramente al telefono? Adesso mi ascoltate più chiaramente? Sì, sì, adesso, sentite, adesso okay, mi sono spostata. Un pochino meglio, Marica, sì. Quindi ci diceva che è felice. Quando l'ha sentito suo marito, Giacomo Giacalone? Quando è riuscita a sentirlo? Io sono riuscita a sentire mio marito verso le 13. E abbiamo pianto come dei bambini, perché l'emozione era grande nel sentire di nuovo le nostre voci. Lui era più contento di me, giustamente, perché anche per lui sono stati giorni abbastanza pesanti, e anche dalle foto che abbiamo visto si vede anche mio marito che è molto dimagrito, l'ho visto. Però ormai pensiamo ad averla più presto a casa per poterli riabbracciarli e per tornare soprattutto alla nostra normalità, quella normalità che in questi 108 giorni è mancata. Senta Marica, gli ha raccontato già un po', per lei l'ultima volta quando l'aveva sentito, quindi oggi per fortuna per la liberazione l'ha sentito alle 13, ma l'ultima volta che aveva potuto contattarlo quando è stato? Quando la Farnesina ci ha permesso di sentirli con una chiamata dopo 74 giorni dal sequestro, ma è stata una chiamata velocissima, una chiamata di più di incoraggiamento. In quella chiamata io non sono riuscita a parlare con mio marito perché eravamo tutti in collegamento tra le famiglie, e quindi c'è chi piangeva per la gioia. L'unica cosa che in quella chiamata dopo 74 giorni è stato il loro grido di aiuto. Tutti hanno chiesto aiuto per la possibilità di essere liberati al più presto possibile. Anche loro non ce la facevano più. Tutti loro hanno chiesto liberateci, fate in modo che ci liberate al più presto possibile. Dopo quella chiamata c'è stato silenzio, un silenzio che ha ucciso, un silenzio che stava facendo impazzire, e ad oggi finalmente è come se è spuntato il sole dopo la pioggia. Marica, è veramente un regalo. È bello ed è un regalo anche il suo racconto, Marica, perché anche questo lungo periodo finisce, diciamo che tutti un po' siamo un pochino più rachitici nei sentimenti, forse, no? Ci chiudiamo più in noi stessi, siamo tutti presi da questa pandemia che ha coinvolto tutto il mondo, e forse sentire delle parole così, così forti, così appassionate e anche tanta felicità nella sua voce, insomma, è molto, molto contagiosa in senso positivo. Marica, ricordo che sono appunto 8 pescatori italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani, 2 senegalesi di Mazara del Vallo. Quindi diceva il sindaco di Mazara del Vallo in Sicilia che li aspetta con grandi festeggiamenti, naturalmente con tutte le cautele del momento particolare, no Marica? Però siete felicissimi, questo si sente dalla sua voce. Quando riuscirete ad abbracciare i vostri cari, lei e suo marito, Marica? Allora, si parla di domenica perché vengono con i pescherecci, quindi ci sono delle ore di navigazione, si parla di domenica forse la sera, poi adesso non so se c'è mal tempo, buon tempo, quindi il peschereccio a seconda del tempo che si ritrova cammina in giusta direzione, però la cosa positiva è che a più presto saranno tra di noi, a più presto ce le possiamo godere di nuovo, quindi tra oggi, domani, dopodomani saremo pieni di carica, pieni di carica. Io in questi mesi inizialmente l'ho presa malissimo, perché sono sempre una moglie giovane, io Ma io e mio marito abbiamo una bimba di 1 anno e 5 mesi che in questa settimana chiamava suo padre. È stato come un segnale. Mia figlia non aveva detto mai papà, ma in questa settimana prendeva le foto, si metteva le sue labbra nella faccia di mio marito e lo baciucchiava tutto gridando papà, papà, papà. E se tu gli chiedi a chi vuoi bene, a mamma, a papà, lei risponde a papà. Quindi glielo concediamo questa preferenza, naturalmente, in questo momento. Sì. Marika, io la ringrazio, mi ha fatto venire i brividi. Grazie davvero per la sua voce così la sua emozione ci ha contagiati positivamente, davvero è molto molto bella. Quindi le auguriamo il più bel Natale della vostra vita in serenità e che possiate finalmente riabbracciarvi e definitivamente. Grazie. Possiamo Marika Calandrino, dire che è un Natale grazie a voi. Grazie a lei, Marika. Grazie. E quindi si direbbe che tutto bene quel che finisce bene, anche se naturalmente restano tanti problemi, le questioni aperte di geopolitica, di diritto internazionale. Però prima di tutto con Arturo Varvelli, che è non solo grande esperto di Libia, ma è anche presidente del Consiglio europeo per gli studi internazionali. Buonasera Varvelli. Buonasera a voi. Buonasera Varvelli. E stavo dicendo appunto, Consiglio europeo di relazioni internazionali, che rimangono aperti tante questioni, ma intanto però significa che dietro le quinte, in tutto questo silenzio, quindi il governo italiano stava trattando. È vero che c'è stata anche la Francia accanto al nostro governo per riuscire a arrivare a questo risultato? Beh, non è chiaro e naturalmente tutti in retroscena non dovrebbero essere resi pubblici. Naturalmente la collaborazione con i partner internazionali in questi momenti è sempre massima ed è anche vero che in qualche modo la differenza di vedute, approcci diversi, insomma vengono un po' messi da parte nel nome della soluzione di una questione. Io penso però tutto sommato nella felicità di che abbiamo sentito nelle parole di questa signora e nella felicità di tutti noi per averla riportata a casa, ci sono anche delle ombre, diciamo. Le ombre sono il fatto che tutto sommato il generale Haftar ha ottenuto il riconoscimento politico che voleva e l'ha ottenuto portando Bengasi sia il primo ministro dello Stato italiano Giuseppe Conte sia il ministro degli esteri Di Maio. E questo per lui è sufficiente per vantare agli occhi internazionali la propria capacità di essere un referente importante all'interno del quadro libico. Bisogna ricordare che nell'ultimo anno Haftar ha perso il conflitto, è stato molto accantonato dalla comunità internazionale, ha perso anche qualcuno dei suoi protettori, ha perso la fiducia di alcuni dei suoi protettori. L'Egitto insomma ha cominciato a guardare altrove, guarda da Gila Saleh. I russi hanno minor fiducia eccetera, e l'Europa, la comunità internazionale ha cercato di isolarlo, in parte ci era riuscita, anche la Francia insomma in qualche maniera ha dovuto fare buon viso cattivo gioco, non è più il cavallo vincente Haftar, e però Haftar con questo gesto si prende una sua rivincita importante. Tra l'altro appunto diciamo che riporta in modo prepotente all'attualità il rapporto, non so se definirlo ambiguo, che l'Europa o la comunità internazionale ha rispetto ai due, cosa possiamo dire, sempre due capi della Libia, che sono da parte al-Sarraj, che è quello che credo che sia ancora sostenuto dalla comunità internazionale ufficialmente, dall'altra il generale Haftar. Quindi il generale Haftar è quello con cui diciamo il governo italiano ha dovuto trattare per la liberazione di questi pescatori, e quindi dice è assolutamente così, ha trattato con lui, perché lui è sostanzialmente il capo militare della Cirenaica. Però nel frattempo, proprio a causa della sconfitta che lui ha subito, ha cercato di prendere Tripoli un anno e mezzo fa, ma è fallito direi miseramente, sono emersi altri attori. Quindi ormai la questione non è più unicamente tra est e ovest, ma stanno emergendo altri protagonisti di questa crisi. Gila Saleh, il capo del Parlamento di Tobruk, è uno di questi, ma dall'altra parte non abbiamo più solamente Sarraj, abbiamo Bashagha, che è il ministro degli interni, molto vicino molto vicino ai turchi. Poi abbiamo Ahmed Maytig, che è un po', insomma, in ottime relazioni con il governo italiano, che è vicepresidente. Quindi la situazione è molto più fluida dal punto di vista politico. Ci sono le Nazioni Unite che hanno conseguito alcuni risultati, però non hanno ancora posto fine a questo conflitto. C'è stato il fuoco, che però non riesce a tramutarsi, diciamo, in un nuovo governo di unità nazionale, in una situazione veramente pacificata. Il rischio è che questo rimanga una sorta di conflitto congelato, cioè le posizioni vengono congelate sul campo, vengono bloccate, ma non si arriva mai a una soluzione vera e propria del conflitto, a una vera stabilità. Quindi non si riesce, appunto, a stabilizzare la Libia come si cerca di fare da tanto tempo. E tra l'altro, appunto, dicevo diritto internazionale, perché il sindaco di Mazara del Vallo ha chiesto al governo di avviare, appunto, questa politica per tutelare, dice, i nostri marittimi nel Mediterraneo, ma finché la situazione in Libia è questa, insomma, c'è poco, credo, da sperare. L'importante, appunto, che almeno questa vicenda si sia conclusa così, Varvelli. Ma sì, questa è una questione, questa dei mazzaresi e dei nostri pescherecci che vanno nelle acque che non sono acque territoriali libiche, che però la Libia rivendica come proprie, perché c'è un confine. I libici tracciano praticamente una linea su tutto il Golfo della Sirte, andando al di là delle 12 miglia marittime, di quello che dice il diritto internazionale. Questo non è stato riconosciuto mai dall'Italia. E però fin dai tempi di Gheddafi è fonte di queste incomprensioni, e molto spesso i nostri pescherecci erano stati in qualche maniera arrestati, fermati e tenuti sulle coste libiche. Mai lo sono stato però per così tanto tempo, e questa è stato questa occasione è stata trasformata in una vicenda politica da parte di Haftar. Grazie Arturo Varvelli. Grazie, ricordo, grazie, presidente del Consiglio Europeo di Relazioni Internazionali, oltre che avete sentito, grande esperto di Libia. E buon Natale, Varvelli. Grazie a voi. Grazie, che almeno ci porta verso Natale questa buona notizia. Elena mi ricorda, devo aver detto 2019, no, il settembre 2020, naturalmente, ho detto che sono 108 giorni, quindi stiamo parlando del settembre, primo settembre 2020, cui sono stati sequestrati questi due pescherecci, e finalmente questa vicenda si è conclusa. Bene, allora ci fermiamo per la solita pausa di riflessione e di respiro. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, lì quando volete, oppure il WhatsApp al 349-238-6666. Torno ratta come la folla. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete da tempo, siete al posto giusto, nel momento giusto, per essere aggiornati costantemente a fine giornata di tutto ciò che è di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero. Roberta Giordano sempre a raccontarvelo dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22, insieme poi agli ospiti per gli approfondimenti di alcuni argomenti in primo piano, come naturalmente è stata la bella notizia, finalmente una bella notizia, che è arrivata, quella della liberazione dei 18 pescatori sequestrati in Libia il primo settembre scorso. Ne abbiamo parlato sia con la moglie di uno dei pescatori, che ci ha regalato davvero tutta questa emozione che aveva nella voce e nel cuore, e anche questa attesa così trepidante. Ha detto che dovrebbero arrivare poi per domenica in Italia a casa, quindi in Sicilia, dove li aspettano per festeggiarli, e poi con un esperto di geopolitica e di Libia, qual è Arturo Varvelli. Adesso invece ritorniamo sul tema dei temi. Noi siamo arrivati ad una scelta comune, di questo ringrazio le regioni. Vogliamo tutti più restrizioni nel momento in cui il paese si ferma, e il paese si ferma per le festività, non lo fermiamo. Quindi il sistema territoriale delle fasce continuerà ad andare avanti. In questo momento il paese sarà nei prossimi giorni tutto giallo. Allora la domanda che dobbiamo porci è: nel momento in cui siamo tutti a casa e quasi tutti fermi, ha senso mantenere il paese aperto o no? Noi riteniamo di no. Ieri lo abbiamo detto in maniera molto chiara con tutti i presidenti di regione, e abbiamo tutti la stessa posizione. Lo ha affermato oggi con forza a Sky il ministro degli affari regionali Francesco Boccia. Ha detto: serve il massimo rigore per le festività, le regioni sono d'accordo col governo, servono restrizioni per il periodo natalizio. In realtà non proprio tutte le regioni, nel senso che la Val d'Aosta ha aperto bar e ristoranti nei giorni scorsi e il governo è ricorso contro questa ordinanza della Val d'Aosta. Poi il presidente dell'Abruzzo Marsilio ha detto ieri: beh, insomma, proprio zona rossa i giorni delle festività forse è una cosa esagerata, e anche da qualche giorno insomma contesta questa posizione rigorista il presidente della regione Liguria Toti. Ma chi è certamente in linea con questa direzione appunto severa, rigorista, così di cautela, è il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha annunciato un'ordinanza con la quale intende anticipare le misure restrittive del governo. Sentiamo il presidente del Veneto Zaia. Abbiamo messo in piedi una soluzione epidemiologica e di natura imprenditoriale che comunque tiene un suo equilibrio, ovvero la chiusura dei confini comunali dalle ore 14, la chiusura di tutti i confini comunali dalle 14, mantenendo inalterate tutte le attività produttive e commerciali, chi ha una saranda non la abbassa, vi ricordo che può restare aperto fino alle 9 di sera se è un negozio, però ci sarà una novità se chiudiamo i confini comunali, che dalle 2 del pomeriggio in poi si lavora solo con i cittadini della propria città. Questo ha deciso Zaia e l'ordinanza dovrebbe essere firmata questo sabato, quindi confini comunali chiusi a partire dalle 14 e tutto questo dal 19 dicembre fino al 6 gennaio. E nel frattempo appunto si aspetta il provvedimento del governo, si ipotizza tutta Italia in zona rossa dalla vigilia alla Befana, ma insomma per questo aspettiamo domani. Invece voglio sentire il parere di Mario Conte, che non solo è sindaco di Treviso ma è presidente di ANCI Veneto, praticamente dei sindaci del Veneto. Buonasera Conte e benvenuto qui a Effetto Notte. Buonasera e un saluto a tutti i radioascoltatori. Quindi Conte, a parte che la sua città Treviso è particolarmente, diciamo, in una situazione particolarmente difficile, no, in questo momento dal punto di vista del coronavirus. Sì, noi abbiamo in questo momento, per essere precisi, 106 persone ricoverate nei reparti di malattie infettive e 27 terapie intensive. Mi consenta però una puntualizzazione anche per giustificare i numeri molto alti del Veneto. I numeri sono così alti perché qui da noi il tracciamento funziona all'85%, significa che ogni positivo comunica i nominativi dei contatti più stretti e noi andiamo a cercare tra quei contatti altri casi di positività e molte volte li troviamo. Quindi è un atteggiamento virtuoso della nostra sanità, che però in questo momento ci deve caricare di responsabilità, perché i numeri dicono che sono numeri allarmanti e che non possiamo assolutamente abbassare la guardia, anzi dobbiamo stringere ancora. Certo, ma invece rispetto a questa ordinanza di Zaia che partirà appunto dal 19 dicembre, mi pare che voi comuni del Veneto e sindaci del Veneto siate tutti d'accordo? Sì, io ringrazio il presidente Zaia perché in realtà questa ordinanza nasce da un confronto costante con la regione e con il presidente, con le città capoluogo, ma poi io rappresento in realtà anche i comuni medi e quelli piccoli. Abbiamo condiviso quelle che erano state le difficoltà dell'ultimo weekend, tenga conto che state parlando con un sindaco che è stato costretto sabato, domenica scorsa, a chiudere il viale principale perché c'era stato un'affluenza eccessiva di persone nella città di Treviso. Vi do due numeri: sabato in città sono arrivate 61.000 autovetture, domenica sono arrivate 70.000 autovetture e la città di Treviso conta 86.000 abitanti, di cui circa 8.000 in centro. Quindi numeri straordinari in condizioni normali, numeri preoccupanti in piena pandemia. Certo. Senta, ma quindi come funziona questa cosa della chiusura dei confini comunali dalle 14? Cioè da che ora ci si può muovere tra comuni e poi cos'è dalle 14 fino a che ora non si può... Mi spiega no, meglio. Praticamente questa chiusura, quindi questa sorta di giallo rinforzato tendente all'arancione, praticamente prevede che alla mattina ci si può muovere tranquillamente da un comune all'altro, perché vogliamo ricordare che sono gli ultimi giorni insomma prima delle festività natalizie, quindi non possiamo non tener conto delle esigenze anche commerciali del nostro territorio. Poi a partire dalle 14, perché le 14? Perché le situazioni più critiche di assembramento nelle nostre città si sono manifestate nelle ore pomeridiane. Il presidente Zaia, in accordo con i sindaci, ha deciso di vietare il trasferimento da un comune all'altro. Ovviamente sarà possibile il rientro a casa e sarà possibile muoversi per motivi di lavoro o necessità o questioni legate a visite mediche, ma non sarà più possibile venire per esempio a Treviso a fare semplicemente la passeggiata del pomeriggio o l'aperitivo delle 5. Quindi chiediamo un piccolo sacrificio ai nostri cittadini, però ce lo impongono i numeri e lo spirito di responsabilità che ha caratterizzato il nostro operato fino ad oggi. Quindi grande senso di responsabilità, vedremo appunto poi cosa deciderà il governo tra domani e dopodomani. Insomma, allora auguri e comunque buone feste, che tutto vada per il meglio, sindaco Mario Conte, e grazie intanto. Auguroni anche a voi, che sia veramente un Natale di speranza, perché abbiamo davvero bisogno di guardare al futuro con, nonostante tutto, con entusiasmo e con la convinzione che torneremo più forti di prima. Oggi molto dipende dall'impegno che ci metteranno i cittadini, e non vuole essere uno scaricabarile, perché i sindaci sono in prima fila esattamente quanto i presidenti di regione e così come il governo. Quindi dobbiamo lavorare in squadra. Capisco che le ordinanze e le limitazioni creano malumori, a noi piange il cuore doverle applicare, però in questo momento dobbiamo pensare a chi soffre, a chi non c'è più e a chi sta lavorando all'interno degli ospedali. Certo, responsabilità. Auguroni a tutti e grazie per questa opportunità. Grazie a lei, grazie sindaco Mario Conte. C'è la viabilità e poi altri ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberta Giordano, stavo leggendo un vostro messaggio al 349-238-6666 di Anna, in realtà, che dice: cara Roberta, dal governo solo annunci, incertezze, anche le persone normali non ne possono più, restrizioni per le feste, poi riaprire il 3 gennaio con la partenza dei saldi eccetera eccetera. Insomma, dice Anna, qui c'è un po' di confusione, effettivamente è così, e speriamo che però le scelte sono difficili, che però insomma tra domani e dopodomani la decisione sia presa una per tutte, così come è successo per esempio in Germania. Ci sarà il Vaccine Day europeo, e che questo giorno sarà il prossimo 27 dicembre. Quindi, come vedete, c'è un anticipo del calendario che era stato previsto. Questo giorno sarà un giorno simbolico. Noi cominceremo a vaccinare i target che sono stati inseriti nella categoria prioritaria che il Parlamento ha approvato, e cioè il personale sanitario e sociosanitario e quello operante agli interno dei presidi ospedalieri pubblici e privati sul nostro territorio, il personale, gli ospiti delle residenze per anziani nelle loro varie accezioni. L'ha annunciato oggi, a proposito di vaccini, il commissario all'emergenza Domenico Arcuri, no? Il 27 dicembre ci sarà il D-Day, il V-Day, il Vaccino Day in tutta Europa in modo coordinato. Per quanto riguarda l'Italia, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha fatto sapere che c'è massima disponibilità sul territorio, ci sono 60.000 medici pronti a dare il proprio contributo. Ne voglio parlare con Giovanni Leoni, vicepresidente nazionale dell'Ordine dei Medici e presidente dell'Ordine dei Medici del Veneto. Leoni, buonasera, benvenuto. Bentornato, effetto notte. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Quindi siamo pronti, siete pronti? 60.000 medici già pronti a somministrare le dosi di vaccino che arriverà in Italia? Diciamo che siamo disponibili, sicuramente, come ha detto il Presidente Anelli, esiste anche una situazione inedita per quanto riguarda quello che è una campagna vaccinale che non ha precedenti nell'era moderna recente, perché è dovuta per il fatto che ci dovrà arrivare a quella cosiddetta immunità di gregge. L'immunità di gregge vuol dire vaccinare almeno il 60% della popolazione. Un'impresa quindi titanica, che parte organizzata dal Ministero della Salute in 5 trimestri, dal 1 di gennaio, dal 27 dicembre come si dice, e finisce il 31 marzo come da protocollo del 2022. I primi a essere vaccinati sono gli operatori sociosanitari nella fase più accezione più larga del termine, cioè medici, infermieri, OS, autisti, tutti coloro che sono a contatto con il pubblico. In più, i quasi 500.000 operatori delle RSA, case di riposo. Saremo quindi noi i tester principali e saremo vaccinati presumibilmente negli ospedali, centri, diciamo, di prevenzione e distretti, e tutte quelle che sono le procedure normali, perché sono anche procedure che hanno un intervallo tra la prima e la seconda dose, quindi ci deve essere anche un database adeguato. Adesione su base volontaria. La base è che la vaccinazione per l'influenza attualmente ha avuto un buon successo, e quindi una percentuale di 60-70% di adesioni tra gli operatori, decisamente superiore a quella degli anni scorsi. Quindi è auspicabile che ci sia una sensibilità diversa anche per quanto riguarda la vaccinazione per il Covid. Vero è che serve anche la vaccinazione poi su scala diffusa, cioè della popolazione normale, e lì entrano in campo anche i medici, i medici generali, anche i dentisti, gli studenti pediatrici, che sono a disposizione per essere tanti punti di vaccinazione, perché devono essere sistemati in maniera capillare sul territorio. Senta, Leoni, avete parlato quindi col Ministro della Salute Speranza, avete chiesto che cosa vi serve per tutta questa organizzazione, per vista che c'è la vostra disponibilità? Beh, la nostra è sicuramente una disponibilità professionale, però so che si stanno organizzando anche dei centri, diciamo, distribuiti anche nelle varie città principali. Questo però sarà una fase di evoluzione, perché intanto cominciamo dagli ospedali e dalle case di riposo, poi saranno il momento delle forze dell'ordine, saranno tutti quanti quelli che hanno contatto professionale, come i maestri, i professori di scuola, con la socialità, e poi ci sarà tutta quanta la popolazione. Ci sarà quindi un po' di tempo per capire com'è l'evoluzione della distribuzione del farmaco, e alla fine si parla tanto di complicanze, problemi di vaccini, beh, insomma, tutti gli operatori sanitari saranno in prima fila per dimostrare la validità di questa procedura, che alla fine in tempi recenti ha liberato l'umanità da altre patologie come la poliomielite, come il vaiolo, ma anche la pertosse, il morbillo, forse dimentichi di quello che è stato il nostro recente passato. Adesso dobbiamo liberarci da questa pandemia, perché dobbiamo anche venire fuori da questa situazione. Chiaro, e questo è, per questo serve il vaccino. Grazie Giovanni Leoni, grazie. Allora aspettiamo appunto che sia disponibile questo vaccino e voi siete già pronti per mettervi al lavoro. Grazie, grazie e buona serata e buon grazie lavoro. A voi. Grazie, grazie a voi. Leoni. Sanremo, arriveremo a Sanremo, speriamo di sì, dicevo, perché sarà appunto un segno di ritorno alla normalità, la normalità che tutti vogliamo, a cui eravamo tanto affezionati e quasi non ci pensavamo, insomma, che fosse la nostra normalità quotidiana, talmente era normale, insomma, scusate questo bisticcio di parole, ma aspettiamo il festival. Oggi Amadeus dovrebbe annunciare, lo chiedo a Marta Cagnola. Sì. Allora, fa il bis, perché lo annuncia lui. Fa il bis come conduttore, come direttore artistico. Sanremo che si terrà i primi di marzo, è stato spostato di un mese rispetto al previsto, appunto per capire cosa succederà in queste settimane, in questi mesi. Non c'è piano B, nel senso che il Festival di Sanremo sarà in quelle date e sarà al Teatro Ariston. Per il resto è tutto da vedere. Ma la cosa buffa che sta succedendo questa sera... Ho visto un litigio... Sì. Allora, l'ultima cosa che ci ricordiamo di prima della pandemia era stato Bugo e Morgan che litigavano a Sanremo. Cosa è successo? Morgan quest'anno ha fatto il giudice di Sanremo Giovani e questa sera avrebbe dovuto essere sarebbe stato nella giuria per decidere i finalisti di Sanremo Giovani, ma è stato escluso dai Big, doveva essere anche candidato nei Big, l'ha detto lui stesso. Pare, insomma, si dice che invece sia stato preso Bugo, il suo, diciamo, il antagonista, suo che prima era il socio. Praticamente lui ha cominciato a scagliarsi contro Amadeus sui social. Se andate sul profilo di Instagram vedete tutto. C'è una scheggia un po' impazzita ogni tanto, e Morgan. E quindi Amadeus l'ha escluso dalla finale dei giovani come giudice. Comunque abbiamo già i primi tre Big che sono stati annunciati. Perché scusami Marca, dicevo che oggi Amadeus annuncia i 26 Big che parteciperanno alla gara di Sanremo. Sì, abbiamo già i primi tre, che sono Francesco Renga, che ormai è un veterano. Invece una coppia giovanissima, molto amata dai ragazzi, perché notissimi nella scena indie, che sono i Coma Cose. E la terza Big annunciata è Gaia, che l'anno scorso aveva vinto Amici e che quest'estate ha spopolato con la sua scega. Però quindi c'è stato... continuano i reality a dare essere un po' vivai. Sì, soprattutto Amici. Poi però c'è stato anche un giochino all'inizio con degli indizi di due Big, una con tutta la famiglia nel nome, potrebbe essere Arisa perché sono le iniziali dei suoi familiari. Ah, potrebbe essere lei. E l'altro rebus era: ci hanno fatto ballare 2 anni fa, ci hanno fatto divertire. Secondo me lo stato sociale. Non faceva prima dire i nomi, no? Hanno fatto un giochino. Vedremo se sono loro. Non so se è azzeccato. Intanto abbiamo già queste anticipazioni. Grazie, Marta Cagnola. Ciao, Barta. Poi ci aggiorneremo naturalmente con gli altri nomi che arriveranno, così giusto per alleggerire. Vedo Sanremo, confermati. Come cose, Gaia, tre big ring, quelle cose che hai detto tu. Esce adesso, Marta ci aveva già anticipato. Vi aggiorno brevemente, come al solito, alle 22.